Quanti voti già pensato con me ne vo? Quanti voti già pensato nuove cose? Quanti voti già pensato non c'è niente? Già abbiato lo treno e me n'ha giaciuto. Mo sto brutto, senza l'ardore di l'erva, senza le rozze pietre che toccano le piedi mie. Non vedo più nascere le fugliazze tiennere, né lo sole che stappone tra le olive. Un panorama senza orizzonti, ogni giorno. Più lo treno e torno. 1998, lo ribellino, 11 anni, e così che nasce la passione per lo paese mia. E moni, sti terrune, te la sta accantono. Senti, buono, quello che pensiamo, che le tradizioni non sanno scirrare mai.